fargli questo. Dai, sali qui, sì, povero. Stai facendo apposta. Ok, allora, io me ne vado comunque nel tunnel di una volta. Io condivido con Shaw. E poi domani c'è stato un capo. Ma lo te li scendi dalla fuori, io. Hola, hola, hola, hola, hola. Chi è, chi è? Avanti, chi è? Chi c'è? Avanti, chi è? Ebbene, oggi! Ebbene, Giomari, ebbene. Dove sei a casa? Ebbene, dopo che vuoi che sia. Sai, com'è? Come fa, come fa? Tutto bene, tutto bene, ha problemi, vabbè, a parte il problema della gamba, ma già potrebbe andare bene. Come mai non sei uscito? No, negativo, no, il fatto che è andata, la vecchia è andata in chiesa, e dunque io sono rimasto qua. Ah, è Pomponio. E Pomponio sarà a casa sua, boh. Ah, non è entrato, no? No, non lo so. No, io l'ho sentito stamattina perché è venuto, doveva consegnare il baracchino a Marino, e dunque è venuto, ritirato, poi ce ne siamo andati. Perché è guaccio quello di Marino, era? No, doveva, non so cosa ci avevano. Non lo so cosa ci avevano, guarda, non lo so. Solo che c'aveva il baracchino di Marino e gliel'ha messo a posto. Ho capito. Bene, bene, bene. Vediamo un po' se c'è Luca del Monte. Luca! Ehi! Vabbè! Oh! Noi sì! Ho visto lui Luca, Luca! Graziano! Non ci sono, no, Giuseppe. Dai, ci sentiamo dopo, Giuseppe. Va bene, già sono qua in ascolto. Ehi! Marino, ascolti il contadino. Attento, Marino, se ascolti il contadino. Oh. Chi va là? Chi va là? Attento, Marino, noto ronzino. Oh, signor Bacchisio. Ma buonasera, signor Tore. Signor Bacchisio, buonasera. Oh, Marino. Oh! Buonasera! Buonasera a lei, come andiamo? E come ti vuoi che andemmo? Piano piano! Vediamo se mi ascolta, signor Bacchisio, avanti, gigante! Via! Ciao giù! Via, sono in macchina, capito? Sono in macchina, signor Marino, il nostro ronzino! Già si sente, signor Bacchisio, si è in macchina! Si sente, sta facendo una campagna, sì! SP60 ti ascolto un po' male Bacchì adesso, un po' male, un po' disturbato. Avanti troppo al Bacchisio. Buonasera signor Bacchisio, quasi quasi non intendo. È in movimento Bacchisio, è in movimento. Io l'ascolto ma è un po' basso, è in movimento. Avanti Bacchì. Ehi, adesso fermo la cosa, alla cabina. E ok, Bacchina, quando arrivi su quella strada ci fai un colpo, là, avanti to. Ehi, catta, che andemmo, dove andemmo? Ehi, mare andemmo, do, mare andemmo, non bene, mare. Ehi, la Graziella, Paolo, cosa hai detto, Bacchì? Sono da Graziella adesso. Ah, sei già da Graziella, Allora, sei arrivato a magazzino al garage, dai. Ehi, devo parlare da lontano, se mi prendo la mano e parlo, sennò è un casotto. No, guida, Bacchì, guida, vai tranquillo, dai. Pensa a guidare, dopo già parliamo, preoccuparti. Avanti, Tore. Sì, è così, arriva al garage e posteggia. Poi già ci sentiamo. Via, via. Ci sono le belle signorine passeggiando. Ah, non ho copito a Bacchì, se io gli occhi non lo copio bene. Tutto a tratti l'ho sentito, non so neanche cosa ha detto. No, io lo sento bene, un po' bassino, però si sente che il movimento, io l'ascolto bene. Lei ha sorpassato Bagazzella, sta girando la rotatoria che c'è giù adesso, così adesso arriva al garage, dai. Sì, aspetta che sta chiamando Gio Maria sulla 27. Questo carretto qua, che è un carruzzo, eh. Un carruzzo superato. E piano piano, vai. Graziano, si è sentito stasera? No, negativo, beh, io ho acceso adesso, è negativo, Bacchì. So che non si nasconde, lo sta cucinando. Graziano, no, negativo, ma sei passato, sì. Ma te l'hai preso a Graziano, Mari? Cosa hai detto? C'è Graziano? No, ve l'hai sentito a Graziano, che non vedi. Non c'è, no, sicuramente sta facendo cosa, dai. A che punto sei, signor Bacchisio? Sto sperando. Stanco avvicinando, dai. Buonasera. Buonasera anche a lei, avanti signor Giulietto, come andiamo? Ciao Marì, buonasera. Buonasera anche a Tore, buonasera anche a Bacchisio, non so se mi ascolta Bacchisio. Ciao Maria, avanti, Maria, come fa? Tutto ok, Giovanni, tutto ok. No, Bacchisio sta in movimento in macchina, Giovanni, è in movimento, adesso arriva in garage, parcheggia, poi già lo sentiamo, dai. Bene, avanti, Torricino per Giovanni, avanti. Tore. Buonasera, Giovanni. Era ora, a me, me l'ho convinto che hai giù da Galleria, no? Dai, che sono col cane passeggiando, l'ho visto io. Ah, col cane setto, Bobo! Il cane è cucato, dare da me. Cosa vuoi di più? Mi ha da Edo. Catta, puntumeggia il cane, tu, puntumeggia. Domani riprendi che sono al telefono, scusa, eh. Oh, signor Bacchisio! Sono andato in garage. Ah, dentro in garage, sì. Ma non vuoi entrare. Gian Marie. Eccoci qua. Basta, lo sento, Bacchisio, deve essere dentro il garage, così è. Sicuramente è arrivato al garage, io al telefono. È arrivato. Gigante! Aspetta che sto mettendo la lente. Parcheggia, dai, parcheggia. È un po' bassino oggi. Avanti, Torricino. Ancora con Leone, sì, no? Cos'è? Mi hanno detto che il Goleone in giro con l'apparecchio oggi. Sì, alle 5. Alle 5 l'ho portato. Cosa vuoi di più? Lucano, quante volte esce fuori? Due volte al giorno? No, tre volte, to. Quante volte lo porto? Tore! Via! Tanto che sono uscito alle 5 con il cane. L'ho chiesto, quante volte lo porti al giorno? Due volte o tre volte? Quattro volte al giorno. Sì, già va bene, dai. Andate, Gio Maria, avanti, beh, campagna, è tutto fatto, sì. Aspetta, dai, vi saluto, ci sentiamo da casa. Gio Maria, sei spostato. Bene, aspettiamo, to, che siano Bacchisio, parcheggi bene, e poi entra anche lui, dai. Ehi, Bacchisio ha detto che si sente da casa, sta chiudendo e riprende da casa. Ok, Bacchi, ci sentiamo dopo. Se la riprenda Gio Maria. Ok. Bene, siamo saliti poc'anzi. Domani sera c'è da fare. Abbiamo finito tutto, capito, Mari? Così che anche domani sera bisogna scendere. Per cui terminiamo, dai, domani. E poi se ne parla fra un paio di mesi. Almeno fatto, tutto ok. Un po' di vento ha calmato, qua c'è un leggero vento, cioè, ma poca roba, poi c'è un po' di freddo, anche stamattina c'era da morire, c'ho una cervicale tre giorni io che non mi vuole passare, appunto mi ho messo la cuffietta stamattina presto, ma già passerà, dai, avanti to. Mettiti il berretto in testa per quello, capito? Se no ti aumenta. Gli abbiamo messo il berretto stamattina, ci abbiamo il berretto dell'azienda, abbiamo messo e... Oh, se no guai, per carità. Guarda, non ti ricordare, Giovanni, ho preso la bustina poc'anzi, perché io ho le mie cine, già ne prendo altre e cerco di invitare, se possibile, ma l'ho presa poc'anzi, adesso mi un po' mi ha calmato, ho capito? Ma da morire, non c'è niente da fare. Bene, Meda, avanti, Tore caduto, Giovanni, avanti. Tore, se ce l'ha sentato un attimino. Ieri c'era più freddo, però oggi non tanto, ma ieri c'era freddo veramente. Aspetta, c'era veramente freddo, oggi si stava bene, dai, campagna, vento, c'era appena varietà, ma era poco, per cui si stava più bene, dai. Ma ieri, caro mio, c'era molto freddo, così che bisogna coprirci. Stiamo tornando in inverno, se non sbaglio. Esatto, no, io parlo la mattina presto, domani. Ieri c'era da morire, ieri sembrava proprio inverno, ieri sembrava. Io ieri ero tutto il giorno con la cuffietta in testa, proprio per riparare la testa, ma non ho giocato nulla, ero solo nervoso e buco. Oggi, stamattina, tu sai, io esco alle 4:20 da casa, c'era freddo, poi scendo giù in azienda, c'è da morire, in azienda, se qua abbiamo 10 gradi, là abbiamo 2 gradi, perché siamo sotto Monteoro, c'è da morire giù in azienda, c'è un sbalzo di temperatura pazzesca, avanti. L'ho visto in certi posti, petto di grande, nuvole di grande, ragazzi, non finiva più, grande è acqua, mareggiato a gran carriera, che abbiamo visto, lei ha buttato poco gli alberi, dappertutto, ieri era fortissimo, dappertutto il vento, e per cui ha fatto un bel danno ieri, per cui oggi c'era, sì, c'era un po' di arietta, però era molto di meno di ieri, dai, e per cui ci stava più bene oggi. È già calato, è calato al 100%, Giovanni, confronto a ieri. No, è la mattina presto, poi già calma, io faccio uscendo da qua, andando in deposito, qua, ripeto, c'è uno sbalzo di temperatura pazzesco, da noi c'è da morire giù da noi, però dopo io me ne vado in zona sto bene, capito? L'unico problema che c'è quando faccio via Ruzzati, le quattro cantonate, fra via Ruzzati e il Gattacelo, dice, lì tu vai anche in estate, c'è sempre il vento. Sempre il vento, poi da altre parti si sta bene. Bene, vediamo se Tore è rientrato. Tore non è rientrato. Bene, avanti, Giovanni. Purtroppo è così, il macello è. Ancora il tempo non è sicuro, per cui bisogna essere attento a non alleggerirti, perché se no ti becca e poi mi entra subito, ma uscirne è difficile. No, già c'ho ancora la roba invernale, c'ho il pantalone invernale e c'ho ancora il paio, Giovanni, e c'ho un doppio giubbotto, quando esco a casa c'ho un giubbotto leggermente più pesante, diciamo, là. Dopo vedo il tempo, secondo che tempo fa, verso le 7:30, le 8, ma lo cambio, capito? Sempre un giubbotto che si abbottona e ciccia. E per esempio oggi è l'altro giorno un giubbotto pesantino, che non mi frega. E a me, come viene il freddore, è da morire, che ho problemi all'estrazione, al naso, che non ne posso più. Dunque cerco di evitare di sfogliarmi. Se non che non ci sia caldo, se no negativo. Avanti. È un periodo che non si capisce più come fai a alleggerirti, ma io ne vedo che si sono alleggeriti a bracci, a maniche corte, gatto, senza maglietta, ma come fanno, gatto? Vabbè, magari i giovani già resistono più di noi, dai. Però non è tempo ancora di uscire a maniche corte, perché il tempo è un po' variabile, certo, un po' bello, un po' brutto, e quando si becca poi ritarda a uscirne, capito, a calmarsi. Per cui bisogna stare molto attenti a questo periodo, ecco. Perché magari adesso comincia anche la puligine ed è peggio ancora. Appunto, dopo io soffro di allergia, l'antistaminico, guai, guai, c'è il storico, è un caos, dunque cerco di evitare. Cerco di evitare di sfogliarmi, già è vero la mattina tutto in calore, ragazzi, ragazzini, maniche corte, già ne becco qualcuno anche, una persona un po' grandetta, in magliettina, ma i dolori già arrivano dopo, arrivano, avanti. E quelli sono in calore. No, io non mi alleggerisco ancora, nonno, assolutamente. Preferisco essere coperto bene perché, ripeto, dopo sono dolori e allora bisogna stare molto attenti, specialmente a una certa età, magari un giovane è diverso, però a una certa età bisogna essere coperti perché quando attaccano non la fini più, Marie. E quello è fatto, specialmente a me, entra subito, va a calmare, sì, allora bisogna stare molto attenti, vediamo un po' Tore si rientra, Tore? Ehi, Gian Marie, mi sono allontanato perché hanno suonato al campanello. Ah, eccoci, vai, di là tu a to. Sì, Bacchisio è rientrato. Bacchisio sarà merendando ancora, chiamalo. Attenzione, signor Bacchisio. Da, non rispondi. Marino! Lavora me, così, la Catrina si è caggiuto dopo. Ti sei spostato, se ho capito, qui. Così, Gian Marie, no, io sai così. Tutta la roba che ho fatto da ragazzo, adesso sono pieno di dolori alle braccia, Qua facciamo a casa, ero col moto piccolo, non lo scemo. Uscivo da lavorare, scendevo a casa qui in campagna, mi attaccavo molto piccolo fino alla sera, sudato come un coro, come un maiale, guarda. Adesso i dolori alle braccia, sento dolori anche quando uso il desiderattore, guarda. Mi sento le braccia vibrare tutto. Purtroppo è così. Avanti. Purtroppo è così, non è che puoi farci niente, capito? Perché tra quell'attore ha sempre caldo lui, noi siamo freddoliti sempre, invece l'attore è sempre in calore. E a chi va giù la ciuffa, vizzino? No, e a chi va a Logane, vizzino, Giovanni l'ha compreso. Dove c'è il cane, perché qua c'è il caldo, vero to? Purtroppo sì. Andemmo dove andemmo. Sotto che il cane è caldo caldo, chissà fa cosa, la belliccia va. Io sto con il cane corso, le odocchie, buttenti, avanti. Purtroppo sono tutti così. Riprendetela Gian Marie. Io avevo sempre freddo. Ava faccio, ribunta, di ripeti. Di mani mi, ghiacciati tutti e due, avanti, dimmi tu, c'è sempre freddo a piedi io. Letta Giovanni, letta, vabbè, dai, piano Giovanni, e io sono più giovane di te, diciamo che anch'io faccio freddo, va bene, non si capisce più nulla, ormai stagioni non esistono più, è tutto cambiato, avanti to. Resiste un altro paio di giorni e a voi già passa. Vabbè, se devo passare, sennò pazienza. Siamo già 6, domani 7 maggio. Avanti domani. Fa così, infatti. A uscire non è tanto facile, capito? Ritarda molto. A entrare entra subito. Ma a uscire non è tanto facile. Per cui bisogna avere pazienza. E stare un po' riservato, ecco, sennò è chi dà ragione. Così stanno, è meglio stare più attenti. Anche una volta bisticheggia a voi, se ne faccio ragione, a venire a Rivisuto, ma da sini tarda un bel. Vediamo se il signor Graziano è in lista. Graziano? Buonasera alla ruota circolari, buonasera a tutto, avanti Marino. Buonasera signor Graziano, ben entrato. In compagnia di Tore Squalo, Gio Maria e Bacchisio e Stambai sta arrivando subito. Avanti Graziano. Ciao Tore, ciao Gio Maria e anche quello che arriva subito. Avanti Tore. Sì, ciao Graziano, stammi bene. Allegro se sta gira. Ma giù fatta va lavare la barbola, a chi mi sono capita da di tipo già lunga, allora mi sono rasato, avanti Gian Marie. Allora ti sei fatto bello stasera, Allora salotto e fai il colpo così. Eia, l'aggiurato io l'anticipo, l'aggiurito, guarda che bel macchiotto, mi ho sbatto la barba. Tu sei un giovanotto buon gustaio, vero Grazia? Certo che sì, io attasso sempre prima all'osso. Che volpino e sei avanti to. Sì, visto l'hai. Graziano, ci ha fatto la vaiba. Tempo già ne ha, vero Graziano? Anche oggi hai lavorato, sì. Chissà che Andrea si è consumato in un cuscino e l'ha rimborso un uovo da 7 centimetri. Andava, Giovanni Graziano. Va benissimo, avanti Giovanni. Oggi sì, Oggi adesso è bello pippante. Ho mangiato bene, anche merendato, gatta, e per cui vuol dire che salotte è quella la faccenda, mi raccomando grazie, piano piano, magari puoi finire anche domani sera. Eia, devo fare poi, chi te l'ha detto che ho fatto merenda, una bella brioche con la marmellata. E un bel latte macchiato, vabbè, caffè macchiato, va, alla vaniglia, buona retu. La Nutella non ti piace, grazie. La Nutella non ti piace? C'è anche la Nutella, c'ho il vasetto grande. Sì, ma non è che ci vado molto matto, ogni tanto l'assaggio. Se faccio un cioccolato che su fondente a quadrati 5x4. Invece Tore la Nutella la usa con la cannuccia, Tore va di associatura dal baratto, me lo so. No, io se lo fai tu, io non mi soccupo una succia. Chi l'ha detto? Tu mi hai detto che ti compri la Nutella, metti la cannuccia e succhi. Boh, tu non mi dici cosa. Avanti Giovanni. Tore come me. Non ci piace assicciare, vero tu? A lui sì invece. Non lo so, più giovane però tu, Noi siete vecchi. Anche il cioccolato, un ciardi. Quello me lo sono dimenticato, non devo ancora assaggiare. Ma qual è? Quello grosso, grazie. Le ciardi, adesso non ricordo come si chiama. Tenneci un tazzone mano. Poi c'ho anche il cappuccino. Il caffè macchiato alla vaniglia. Permesso? Buonasera, avanti Blecchi con la buonasera signor Gigante. Buonasera a tutti quanti, quelli brutti, avanti Marino, riprendi tu. Signor Gigante, dovresti sollevare leggermente il volume. Bene, sono in compagnia del signor Graziano, Tore e Gio Maria. Avanti Tore per signor Gigante. Sì, buonasera signor Bacchi, ben sentito, però sollevati di voce. Sono Glauco, cane, sono Glauco. Andiamo bene, se prendi Mari. Se può dare, ha preso, questo perché dorme a culo nudo. No, se si accasta, va chiuso, inteso, vai, è Glauco, Avanti, Gio Mari. Buonasera, signor Gigante. Siccome non ha ancora caricato, capito? Adesso deve merendare, si carica bene e poi la voce ritorna. Vero Giga? Sì, insomma lì, facciamo così. Andà bene meda. Male messo. Vediamo un po'. Signor Giuseppe Graziano. Ciao Marchisio, ben sentito. Tutto bene, tutto bene. Lascia riprendere questi ragazzacci. Riprendi. Meglio così, tutto bene, sono contento che tutto vada bene. Vediamo un po', Marino, ma come mi ricevi stasera? Tutto rauco, seggio, baggio, Marino, Bacchi, no, ti ascolto benissimo, Bacchi, abbastanza bene, bella pulita. L'ho lavata con Ferrara, grazie. L'ho sollevata di un 30 cm, 40 o anche 50, dai, l'ho sollevata. No, va bene, va benissimo, la modulazione, quel REM è zero, tutta modulazione, pulita, chiara, va bene. Ma non ti ha preso nulla, Bacchi? Come? Non ti ha preso nulla, stavo di prendere un bel latte e ci metti mezzo litro di filo verro. E domani mattina ti alzi tranquillo, con la tua voce. No, ci vuole una 18enne, ci vuole, sudore ci vuole, una 18enne. Non è così, Gian Marì. Infatti, ma che c'è il regione, ti lo sai il sistema, e allora? Marì, quella roba lo fa abbassare a voce, invece già lo sa lui cosa fare e si sente bello pippante la mattina. Perché gigante è buon gustaio, mio Marì. Non te lo vuole così, gigante è buon gustaio, non è come Tore che gli piace la Nutella, la cannuccia. Gigante è buon gustaio. Avanti, grazie. Roba fresca ci vuole, fresca. Va bene Bacchisio, fresco fa bene a tutto, vero Bacchi? Sì, ma grazie a voi, fresca e anche tenera, perché c'è fresca e vecchia, non serve, vuole roba tenera. Certo che sì, tenera e fra lo stesso tempo fresca, no? Però fresca già vuol dire di tutto, fresca e tenero, dolce. Io la penso così, tu cosa dici Mari? Non ti stai sbagliando, grazie, andare così, andare. Fresca, giovane, insomma, come arriva, dai, avanti to. Eia, uia gatta. Rughito sei, signor Bacchi? Eia, rughito sono. Ci ho detto, ci vuole roba giovane, e tenera. Perché tu, la verdura, è come la verdura, mi. Se tu la prendi dura, non serve a niente, vuole fresca e tenera. È fase il mano di Dio. E così è che l'altro. Visto l'hai, se tu invece ti eri coricato con le calze, non ti era successo. Eia, con gli stivali stanotte mi curico. Avanti Gian Marì. Ma chi? La roba fresca fa male, fa male. Deve essere tenera e calda. E vedrai che passa tutto, di la verità. Grazie, anche tu. Tenera va calda. Allora aspettiamo adesso un pochino, quando ci sono i cittadini in serra sono teneri e caldi. Hai sentito Marì? Riprende Marì. Bisogna vedere se si muta però. Silenzio, non si entra così, bisogna stare calmi. Marino, mi allontano un attimino, che vengo subito. Tattate in terra, Bacchì, quando esco avvertimi. Avanti, chi vuole entrare con la buonasera? Bisogna vedersi che mi rimonta. Già così sì. Avanti, grazie. La roba bene, la faccio bene alla salute. Tutto vitamine, vero Gian Marì? Va bene, tutto va bene, tutto fa brodo. Solo quello ci manca, Bacchi, diglielo. Grazie, ha ragione del coso, Maria. Ci vuole vitamina C. Ah, grazie, si è parato. Chi è che vuole far entrare tutto rauco, avanti. Atto via, avanti che vuole entrare. Non ha gana, chi si Maria. Chi se lo può farmi dare che rauco, è un muro e a maticola. Ci sarà in contegno l'ugitriolo di Bacchisio. Buon gustaio, tutto a contagio vammi, avanti to. Sentate, si è tolto un attimino. Che, avanti Bacchì. No, grazie, ancora ci trovi, non ci sono piccolini, cazzo, quanto è rovito. Chi sono da lei, quanto è più grosso. Ancora non sono sviluppati bene, là che mi sviluppa bene, quando sono 40 centimetri di buchi. Ma grosso 40 centimetri o lungo? No, lungo, grosso, fai una circonferenza di dieci, andate. Quanto tu vuoi scarico di lei, va, siamo così allora. Grazie, già sei grosso, proprio grosso, dai. Tra la simila, vero Mari? Già è vero, sì. Grosso anda male, è meglio longa, va chi? Longa, avanti Giovanni. A Lucrezia, così è Marì. Diglielo, ragazzi, sta Graziano, non è come dice lui. No. Graziano, non andate, no, non è così, no. Avanti. Guarda che Una che conosco io ha detto, la lunghezza non conta, a me mi interessa la circonferenza. C'ha ragione, Un fatto è inutile averla, ma lasciamo perdere, bisogna pure saperla trattare pure meglio, grazie. Ma quella non è un'intenditrice, siccome deve appoggiare parallela le pareti, allora voleva così quella cosa lì, capito mi hai? Già ho capito, sì, Bobo, avanti, gigante. Sono male a contentare. E chi li accontenta, graziato? Non si sa se lo vogliono lunga, lo vogliono grosso, lo vogliono calda, fresca, boh. Tutto da vedere. Basta andare con la moda, quelli gonfiabili. Scusate, fanno cazzo voi. E se lo dice Graziano è così, Lui è a correggere di queste cose, è sempre aggiornato, Scusate, mi sposto 2 minuti, arrivo subito, avanti, ma chi? Aggiornato Graziano, Graziano non ho capito, se intende queste cose, va sul fino, così è Graziano. E allora bisogna aggiornarci giorno per giorno, ma chi si alza un po' il volume? Ma sempre basso sono, grazie. Adesso vai bene bene, sempre seduto di qua. Ecco, allora faccio così. Oia, Giomalia, arrivo bene, a te arrivo scarso. Forse c'è la carta carbone esaurita, grazie. No, così stai arrivando benissimo, bello chiaro, bello per mantello. Anche Giomaria, come Giomaria sta arrivando? Riprendi Giomari. Comunque come segnale a fondo scala è al massimo, la radio dovrebbe essere più incisiva. Marino mi spacca tutto qua, Graziano la stessa cosa, però Bacchisio è come segnale fortissimo, come radio non tanto, si capisce bene. Adesso infatti è più forte di poc'anzi quasi non riuscivo a capire Bacchisio, mentre in questo passaggio, come ti ha detto Graziano, è aumentato, ma forse magari parli a voce bassa, non lo so. No, sai cos'è, che c'ho il rischio di parlare col microfono lontano, ecco cos'è. Ah, ho capito, adesso ho capito allora. Avanti, signor Marì. Sono solo il campanello. Benissimo, così è, vabbè, Giomarì, è un po' rauco adesso, lasciamo magari parlare un po' lontano, il microfono lontano, con la chiesa. Bene, Torricino, c'è ancora? Adesso già si faceva entrare. Ma chi? Lì Gagarini bisogna fare quella roba forte. Vedrai che la voce ritorna subito perfetta. Stasera, ma chi? Caffè e latte e un po' di filo ferro. Niente filo ferro, solo chiudi. Niente Maria, alcol niente. Perché lei sto prendendo, niente alcol. Ah, esatto. Solo chiudi, bene, bene. E va bene, dai. Con quella roba di là non so come tu, troppa roba stai prendendo, dunque ti fa effetto al contrario, ti fa effetto, ti tronca, ti guarisce una cosa, te ne viene un'altra, meglio evitare, piano piano già passa, va. Bene, avanti, grazie. Ehi, Luca non si è sentito manicomio stasera, l'avete sentito? Io. Dove sei ancora via vestito, non sarà ancora sceso, grazie. Perché per la patente doveva andare oggi? No, perché non c'è mai in coglio, dove? Non è via vestito. No, siccome ho visto che su Facebook era con la patente, adesso non so se aveva la visita oggi, non l'ho sentito per niente alla radio, l'ho accesa adesso, vabbè. Magari sta facendo qualcosa. Magari impegnato, già entrerà dopo. Avanti Giovanni. Non l'ho sentito nemmeno io, Nulla. Vabbè, sono entrato anche tardi io. Ok, dai, io ne approfitto e devo chiedere che ancora non mi sono rinfrescato in campagna, per cui mi sento un po' strano, allora preferisco rinfrescarmi un pochettino, dai. Eventualmente se ci siete rientro dopo, se no tenetevi salutati come presumente a vostro QRA, o eventualmente ci sentiamo domani sera. Riprende, grazie, io chiudo, dai. Eia, ok, buon proseguimento di serata se non rientri. E buona cena, buon tutto, saluta alla 50. Vai Marino. Benissimo Giovanni, tutto è cambiato al 100%, se in caso ci siamo più tardi, se no domani si coincide. Avanti, Bacchi. E io salutiamo il coso, Gian Maria, buonasera Gian Maria, grazie delle quattro chiacchiere, buon QRD, buon tutto, buona cena e saluta la signora. A domani se coincide ce la chiacchieriamo ancora. Bene Meda. Avanti Maria, riprendi tu. Avanti, avanti, ma io non aggiungare oggi Bacchi, non ne voglia. Oggi sono in stand-by, vediamo Tore, se c'è Tore, avanti. Tore caduto la sedia. Avanti, signor Cristiano. Tore sarà a farrelli di curicani. Avanti, così non mosso, a culo. E vedi a Tore correndo per tutto il quartiere. Povero Tore, avanti Bacchi. È così, è uscito a portarla a fare la pipì perché il vasino non era lì. E beh, grazie, quella roba bene ti andava. Sì, grazie, sì, a voglia, buona buona. Vola. Mi pare che ci sia vola vola, non sai cos'è il vola vola. A me non me la metto, ma già lo sappia cosa era, lo vola vola, non mi viene in mente, però già lo sapevo, però non è vola vola, è buona buona. Guarda, ma che vola vola, sai cosa chiama nel buco, dice cose che vogliono ricandare, dimmi, avanti, ma che? No, Marino, stai sbagliando, vola vola. Quei ventagli, quelle eriche che vendevano alle bancarelle per i bambini. Già ho capito, sì, erano easy, ma quel nome indica pure cosa fate, come si chiama? Quelle specie di... quel bastoncino pieno di cose, di... di roba che metto vicino ai candarelli. Fanno i quattro corsi, diciamo che buon lavoro, è buonissimo, diciamo che lo usa il capo candeliere anche. Sì, io buon lavoro conosco quelle giranti che vendono le bancarelle ai bambini quando sono le feste. Cosa stai dicendo, buon lavoro di seghizio? Sì, ma chiamo pure quello, ma chi chiama? Che io ogni anno un amico mio genero ne da uno per mio nipote, capito? Quelli vanno preparati e messi ad attaccare al candeliere, poi una volta sceglie il candeliere, con uno smonto da quanto, le danno quelli, a chi le vuole le danno, capito? Avanti, grazie. Ma chi già, ma stai dicendo lo zucchero filato, quello stai dicendo? No, grazie, quel bastoncino dove c'è quella ruota tipo stella che gira col vento, così è, ma chi? Quello lì è. Quella, c'è il bastoncino, c'è quell'elica, un pezzo di plastica, prima li facevano in cartone, adesso li stanno facendo in plastica, li comprano i bambini e gira quando c'è vento, se sono rosse, verdi, colorate, dai. Ce l'ho qua nel giardino, picchi da una pianta, mi ce l'ha passata e l'avevi arrangiata un poco, quella ventola tutta colorata, ce l'avevo... e un vaso grande qua a chi si accalava negli gurracci e allora ci abbiamo messo quella ventola un pochettino grandetta quanto un pallone era, questa ruota tutta colorata, però poi non ci ho fatto caso, si era buttata al vento, a chi mi pare non vuoi più, forse mi ce l'ha portata al vento a traccia dura, tanto gli era addosso il suo vento. Girandola! E se ne è fuggita, dai, avanti, Bacchi. Girandola! Avanti, chi sei? Girandola, cosa la vuoi chiamare? Elica, girandola, para! La ruota che gira! La girandola, sono rientrato, Mari. Capì, la girandola si chiama. Vero, signor Bacchi? Vero, ma in Sassarese come si chiama? Si chiama Vola. In Sassarese, sì. In italiano è girandola, ma in Sassarese Vola. Capito? No, grazie, ti do una cosa io per le cornacchie. Un trucco che c'è per le tue cornacchie. E non ve ne fa la mancuna, io non lo sapevo, mi hanno fatto fare a canno per la fava. Mi hanno toccato una fava, la canna mi faceva una beffa. Si fanno questi lavori con una bottiglia dell'acqua minerale, sia bianca. È una bottiglia trasparente, di chi ce li plastica. Eia, ascolta, la devi disegnare in quattro parti. No, in tre, tre vanno. Devi ricavare tre palette, buchi il coso, il fondo e infili un bastone. Strumento la vaseira e fa voluto, la cornaccia non si avvicina. Ah, chi fa di rumore non si avvicina. E beh, fai tre buchi, tre facce, come te. Devi fare disegnare la bottiglia in tre parti. Ci fai il taglio in verticale, un pezzo in orizzontale, e pieghi la letta. Devi ricavare tre ali, tre palette devi ricavare, a modo che il vento batte su quello e la fa girare. Ah, ho capito. E la devo disegnare in tre facce disegni. Poi taglio lo fondo, lo piego e faccio le tre alette, così. Scusate, mi sto spostando, arrivo subito, No, grazie. Il fondo deve essere intero, deve essere bucato con una punta di trapano da 12 o un ferro caldo. Ci fai un buco da 12 e ci deve passare un ferro da 6 o anche un ferretto di fare la lana. Le freghe a paoletta dei borrighini. Le alette vanno in verticale, fate sulla bottiglia in verticale. E vuole con le bottiglie bianche, non quadrate, rotonde. Ah, già ce l'ho il ferretto, già ne ho ferriti. Eia, e poi la picchia e lo entro la vasina, fa del rumore e non vi vede. No, la corraccia lo fa benzina. E lo so, Marino forse le ha viste, ora non per giù in questo periodo. Marino le ha viste giù in campagna, girano, diventano le macchie in pulire, fate la brutto. E la corraccia non va andata. E questo qui me l'hanno portato dal Piemonte, la cosa, il lavoro. E beh, funzionava. Sì, sicuro, grazie. Se ci sono dei segni, non hai toccato una fava. Non ci sono avvicinati in manuta i corracci. Ma funziona il giorno quando va il vento, quando non va il vento rimane in vermi, paro. Chiaro, è sempre in giro. Pacca una buffata lenta e le gira. Eia, va bene, là, farò, fai no che io mi accontento pure la carabina, non manco faccio l'affetto. Infatti, a quel poluna, distrutte e mangiate. La cosa di pizzicatura buscava un capo cante una pallina di chi da baseball, un agabo, mezzo maduro, cante la voce e se tutta è finita lui a Gino, pari a un tacchino Maria. Sì, quindi so fare gli iadini, quindi so manni, cante una iadina, enormi, fatevi paura, fatevi. Ti sto dicendo che poi quando è morta, che era nel cortile, con le tempere, se tutta canta è finita, ma con gli altri l'hanno inducata, figurati, ci la pedavano, però non hanno mai mangiato, ma con i cani salutavano quando si avvicinavano, la pedavano, però non la inducavano, e ma con la figuracci, si buoniano i vicini, ce la pedavano, ma non l'hanno mai inducato. E sei finito, varia un sacchino, varia, di cantina grassa. Siamo là in forno. Tore, io siamo in forno, non da me. Cos'è Bacchi? Certo, ma lui andava bene in forno, era grassa. E boh, non lo so, no. Aspetta, matura, era, se va via un abbezzo di capo, la si è appiccicata proprio a capo, si era spappolato. Ma non è, va via, un capo umano, mica, cate un cane che va via io, che muto. Cate uno che c'hai, un abbezzo di capo va via. Era grande anche come stato invece di quella lì. Lì dove li tiri? Il terrazzo lo tiri, grazie, o il cortile? Dal cortile. Quando è in alto, però in basso è pericoloso, se può c'è la caricatura un biglia piombo. In alto va bene. No, non mi so che io credo di più, capito? Non c'è tempo, ci veniamo, comunque è a riposo. No, verso il cielo, no, io gli metto un paio di brani, un paio di pezzi di mollica di pane sul muro, no? E che rimane in alto, verso il cielo. E di Zaccara ne devo l'uccido. Da vicino li tiri pure, guarda, caspita. Gli altri ho tempo di mirarli. I pezzi che quando non fai nulla in mano, a 2 metri che ti ferma. Venga che cosa in mano, a 10 metri si è già andati. No, chi deve essere a farmi con noci, ne no, mani viste deve essere. E come ti mi vedi nei fuci, allora io mi posso, mi mietizzo, o macù, non mi posso vedere, pongo la bacchina, compreso, non mi vedi niente, ha chiuso Catarito, come ti farà la posso secca. Capito, Tore, ringraziamo. Ha avuto l'appento, ha avuto, non sa cosa fare, se io cago con i corracci. Tore si è assentato, ehi, puruga che curomba gli avvi bassa, purughi si randati, tutti pieni di bilucci, so che si curombi, pucci. Ehi, in campagna che tosse la purughi bassa, ma si vuoi superire lo zombie, a volte, ehi, allora... bisogna farli pure. No, qui ce n'erano una coppia, però non le ho mai tirate, se abbiamo arrivato l'unito, ha arrivato pure le tortore minoriti, 2 uova, non nel nido, poi sono nati gli figliuli, e infatti quest'anno ancora non l'ha giubilato. Ogni anno venivano sempre, però chi si sono giunti l'anno passato erano gli figliuli. E chi di più mani la mamma è uomo, si va a dire, sono molto l'animuti, sono venendo i figliuli, lo sai che vengono ogni anno nello stesso posto dove sono nati, dove li ha fatti la madre e il padre, là. E vanno come la rondine, In campagna c'è la tettoia dove metto la macchina, c'è una tettoia per mettere la macchina. La cosa, il merlo si è fatto il nido, c'erano 4 uova, da 4 uova ci sono rimasti 2 pulcini sono usciti, ed erano già belli, cominciato a mettere piuma, mica la corraccia si è appostati. La corraccia è maledetta, già batti intanto un paio di volte a pigliarsi quando erano i pulcini, diciamo, va, di chi si dortoli. Però, vera, lo faccio, rimania alla guardia, quando la mamma uscia a pigliare a mangiare, lo faccio, rimania a 3 metri di distanza, imboscato. Come ti vedeva i corracci, inizia a pizza e l'attaccava ai corracci. Non bisogna mai riuscire a cantare vivi. Si lascia un po' di passaggio, avessi un busta. Si lo mangiano, distruggono tutto. A parte che verde, a Bellini così, dicevo già un po' di piume, voglio dire controllava. Ma ci mette la corraccia sopra l'aiuto della riva e ha detto, tu c'è non ti hai fatto questa, anda poi da, non vedere più. La corraccia è maledetta, va bene là che chiudo, batti che mi faccio l'insulina, sono le 8:05. Ciao, a domani ce la presentiamo se coincide. Ciao Marino, se sei l'ascolto. Ciao Tore, anche a te. Riprendi tu, se c'è qualche duro, avanti, io sto chiudendo. Vai, Macchi. Ehia, ciao, grazie. Grazie della chiacchierata. Saluto alla signora. Buona insulina, buona cena, buon tutto. A domani se coincide, ce la sentiamo ancora. Vediamo se Tolle è rientrato. Tolle è rientrato, sì. Io sono entrato. Avanti Marino. Ok, saluto chi stanno via, buon colletti, ci vediamo domani, si concilia, no. Diciamo il cane sta abbagliato e non c'è nessuno, capito? Per quello mi sono spostato, invece sono arrivati i signori e c'è mio nipote che sta giocando a Porto Torres, per quello sta abbagliando. Tutto bene, chi è rimasto? Io e tu, no, ma chi? Tore ci dovrebbe essere, Tore. Ehi Abacchi, mi sono allontanato un attimino. Ma sono qua. Ciao Graziano, ci sentiamo domani. Ehi, Graziano ha chiuso già. Va benissimo. Ma Analisa, sto andando sempre bene? Sì, come segnale, come sto arrivando? No, oh, bella, tranquillo, Bacchi, va benissimo. Va anche la modulazione è chiarissima. Va troppo bene. Sì, quella che hai visto tu sto usando qui. Sì, sì, va troppo bene, Bacchi. Va troppo bene. Tu, da Torello, arrivo lo stesso. Ha visto anche da cosa, da Gian Maria, funziona bene anche verso Gian Maria. E dove è puntata, verso me? Sì, ehi, verso te è puntata. Già va bene, visto? Va troppo bene, Bacchi, anda bene. 1-0 per Torre, dai. Sì, fa così, 1-0 by me, anda bene. Ehi, signor Bacchi, si anda, anda, si non anda, pazienza. Cosa fate là, perché? No, non ho fatto nulla, che va tempo. C'ho mio genero che è in ospedale, figuriamoci un po' così a giù tempo e va a nuda. E cosa c'è stato? Un'infezione al petto dove c'è vicino al cuore. Ho preso un'infezione, faceva la risonanza e quindi non so altro cosa abbiano trovato. Boh. Speriamo bene, dai. Speriamo bene, auguri per il momento. È un casotto, è avanti, va chi? Ma tuo genero, così è, Tore? Sì, il mio genero, il meccanico. Purtroppo, e c'è già una settimana. Speriamo che ne sia domani. O stasera, buh. Sì, stasera non lo metto, ma domani mattina lo speriamo molto bene, allora. Anche quello lì ci voleva. Oh, mala sorta. I malanni ci vengono subito qua. Vabbè, c'è Pietro Cata, il nostro collega. Non so se te lo ricordi, quello abita vicino a Vita Santosa, qua anziano, in Baffetti, qua parente a Biancaneve. Quello lì lavorando, fa lo sfruttamento, la zona di Napoli. Ha pigliato un'infezione, è rimasto 15 giorni ricoverato, adesso è a forza di antibiotico, fino alle 19. E proprio l'hanno preso in tempo, è un'infezione dalla pipì del topo, figurati. Sietta, andiamo via, andiamo. Babbo. Siamo tesori serveggi, no. Eppure già ce li hai, tutti quanti le cose che ha fatto. Boh. Cos'è, non si viene a nuda le cose che ha fatto, punture e tutto quanto, vaccini e tutto quanto. Tu già lo sai che facciamo tutto. Questo, chissà cosa diavolo, ha trovato qualche busta, lui col guanto, poi, o magari, io sto pensando, magari col guanto aveva preso la sigaretta, non so, ha fumato, e comunque l'hanno preso in tempo, a che si era quasi andente. Era una ghetta con l'ossigeno e in stanza serie e non faceva niente a nessuno, figurati. Certo che andiamo via, andiamo. E vabbè, pazienza. No. Speriamo che si rimetta al meglio. Eh sì, ok, avanti, va chi? Sì, è così. È brutta, Brutta è l'infezione, maledetta. Mi ha fatto un mese d'ospedale che l'ho fatto. Sono stato più di 20 giorni a forza di antibiotici, a litri mi lo ponevano, capito? A litri l'ho bevuto, giorno e notte sempre con quella cavolo di bottiglia scendendo. E vabbè, da un topo, che io... Anche tu col topo? Ma chi? Via. Anche tu dal topo? Dal topo. Il topo, io ho mangiato un mandarino, l'ho sbucciato, me l'ho mangiato e poi sono andato in coma e da lì hanno scoperto che era le cose di un topo. L'infezione si era presa dalla pipì del topo. Hai visto, è come il mio collega lo stesso, era proprio cacciato, l'ha imbigliato in tempo, boh. Ah, che già gira il topo è salito sull'albero del mandarino, così, maledetto. Il topo è passato sull'albero. Io il mandarino l'ho sbucciato, infatti gli ho detto al medico, ma io non l'ho sbucciato, sì. Lei l'ha sbucciato, però con le mani sporche ha toccato il frutto, poi ha sbucciato. Se l'ha mangiato, adesso ha mangiato anche la cosa, la porcheria che c'era. Capito? E mi è andata bene, Io ero già là, andai in Ira, però lui era già andato. E come mio collega lo stesso, lo dimentico, la moglie, era proprio imbigliato in tempo, in tempo, non respirava più, la pizzicata gli ha preso i polmoni, più si stava attaccando anche al rene, figurati. Invece a me mi ha preso il sangue e le vie urinarie. Ma sta cosa per Zamburo, per carità. Lui era, ripeto, una settimana chiuso in camera sterile con la incubato con ossigeno. Proprio non respirava, non respirava. E vabbè, anche questa volevo fatta, là. Avanti to. Vabbè, io ne approfitto, anche se governa nel Turreni, ne approfitto. Ci sentiamo domani, Bacchi e Maino. Alle prossime, ok, ciao. Ok, Tore, vai. Ciao, Tore, ben sentito, sono tornato in casa, domani si concilia, là. Benissimo, avanti, Bacchi. Ciao Tore, salutissimi, c'è la signora, a domani se coincide, e fatti vedere, non da me, dal medico, stavo scherzando, fatti vedere Tore, ti faccio vedere il lavoro. Ma chi? Appena mi libero di tutto, è che mi aiuta a consumare il burro la macchina, e non riesco a far nulla. Allora si è incasinato tutto, tu puro, piano piano Tore. Piano piano, già siamo in Italia. Bene, Marino, sono le 8 e Bacchisio deve andare a prendersi le medicine e poi a cenare. E te saluto Marino, grazie delle 4 chiacchiere che abbiamo fatto stasera, ce la sentiamo ancora, ce la vediamo un po' tutto. Bacchisio, quest'istante, vi saluto ancora, anche gli amici sono in ascolto. E ok, ciao Bacchi, ben sentito, saluto di QRA. A domani se concilia, là, se in caso ci vediamo domani, bene. Saluto tutti gli ascoltori, chiudo anch'io. Quello ti per me, ciao. Illu!